Per adesso io non sono una persona normale, un onesto cittadino con licenza a non parlare, che si fida dell'eletto, lui saprà che cosa fare. Per saltare il debitino c'è più tasse da pagare.